Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar, le 8 e 20 minuti, eccoci. Eccoci qua, in questo martedì 2 di febbraio. No, oggi santi niente, perché no, c'è niente. Una priorità nel calendario liturgico. È come quando Renzi decide che bisogna attaccare l'Europa, tutto il resto sparisce dai giornali. No. Quindi oggi è la presentazione del Signore al Tempio, e quindi c'è questo povero santino che da sempre sopravvive, tenta di difendere. Ci sono anch'io il 2 febbraio, ci sono anch'io. Poverino, si chiama Adabaldo, cosa volevi dire? Adabaldo. Però oggi mi sottolineo in particolare una cerimonia che c'è da secoli, sì, e che in questa circostanza del dibattito acceso in Italia su insomma le unioni civili, le adozioni omosessuali, scopre, vedi, la grandezza della Chiesa, perché da secoli c'è questa cosa. Al santuario di Montevergine in Campania, per la presentazione del Tempio, c'è una cosa che si chiama l'aiuta dei femminielli, come si dice in campano, in napoletano, perché nella presentazione del Tempio i femminielli, cioè omosessuali, avevano pieno diritto alla loro, per così dire, visita a Montevergine. Vedi che poi a scovare la storia della Chiesa tutte queste discussioni. La Candelora, il Madonna della Candelora, è Vladimir Luxuria quest'anno, che ieri è andato a fare un convegno esattamente su questo, e che secondo me si poteva, si doveva risparmiare con la battuta su Giorgia Meloni. Su Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ma allora, il caso è questo, ma se volete parliamo ancora un po', e non solo di questo, visto che noi siamo il solito porto franco, potete dire tutto quello che volete, ma partiamo ancora dalle unioni civili, visto che sono molto in discussione. Abbiamo scoperto anche una cosa sulla stampa molto interessante, ma prima di addentrarci su questo, ma il caso perché lo è diventato Giorgia Meloni, ma che paese è quello in cui una donna, sebbene una donna politica, pubblica, con tutte le critiche che uno può fare a un politico, annuncia in un afflato di entusiasmo una cosa secondo me meravigliosa, cioè bella, di aspettare un bambino e tutti iniziano a coprirla di insulti, dalla satira più o meno leggera del litizzetto, più o meno leggera, agli insulti, vabbè, della rete, quelli proprio più beceri. Luxuria che spesso ospitiamo. Vladimir, perché hai scritto questa cosa? Auguri e figli trans. Non so, io ho trovato quel giorno la cattiveria, io subito ho twittato a difesa del fatto, comunque la si pensi, e constatando che comunque la divisione è stata terribile sui social sul tema del Family Day, io sono pro unioni civili, ma detto questo non è possibile vedere gli insulti traboccanti, vergogna nei confronti. Ma io dico anche nei confronti della piazza, quelli che erano al Family Day erano retrogradi, trogloditi. Mi ha colpito molto il livello delle reciproche durezze. Ma proprio... sì, ma perché? Ed io, i social sono a volte un saloon di ubriachi. Sì, vabbè, ma i social sì. Ma poi, tra l'altro, per Vladimir Luxuria, un figlio trans, non so, dovrebbe essere una benedizione, dovrebbe essere una cosa. Quindi non utilizzato. Come dire, invece per Giorgia Meloni, secondo Vladimir Luxuria, non lo è una. Tra l'altro Giorgia Meloni che ha risposto così, senti a Vladimir Luxuria. E voglio dire a Vladimir Luxuria che se anche mio figlio fosse gay, trans, bisex, trisex, quadrisex, lo amerei come qualunque madre ama suo figlio, ma continuerei a essere contraria alle adozioni da parte delle coppie. Ok. Vabbè, non lo so, forse è chiuso qui il caso. Vabbè. Sì, perché secondo me la misura di civiltà sarebbe quella di dire comunque la pensiamo, io e te non litighiamo sui figli tuoi e miei, perché ecco, cioè non c'entrano nulla. E il dibattito inizia oggi, formalmente non è ancora iniziato, chissà il Senato cosa ne sentiremo. Cosa ci riserverà. Ma oggi la stampa su questo, caro Oscar, dice, scrive un articolo interessante, Ugo Magri. Di grande scuola di giornalismo repubblicano, cresciuto insieme a Spadolini, sono felice di dirlo, ma detto questo scrive un articolo dicendo qua tutti si massacrano sulla possibilità di adozione o meno alle coppie omosessuali, cosa che in Italia in realtà per via di giurisprudenza, cioè con decisioni dei magistrati, è già praticata, perché con la, in alcuni casi, con la legge 184, esatto, non confondo tra quella 194, l'interruzione di gravidanza, 184 articolo 44 lettera B, in alcuni casi i magistrati consentono benissimo l'adozione a coppie omosessuali, cioè a coppie omosessuali, dando in adozione, quindi considerando padri o madri quelle che sono i partner in realtà, esatto, di una coppia omosessuale. È successo in alcuni casi, hanno che, fatto anche appunto, l'adozione, l'adozione di figli preesistenti, sì, sì, sì, alla coppia di fatto creata, considerando il partner come il secondo genitore, padre e padre, madre, come madre, adozione, quindi con l'esercizio di potestà parentale. Quindi Ugo Magri si chiede anche, ma davvero c'è bisogno di fare una legge? E di inscenare tutto questo bel popò di insulti reciproci? Non lo so. Di dire, questo io voglio chiarirlo perché ieri ho risposto a parecchi ascoltatori che continuavano a dire Giannino si corregga perché dice che la legge noi civili non è solo per i gay, invece è solo per i gay. No, cari ascoltatori, no, non credete a questo che vi dicono. La legge è fatta in due parti. Nella prima, proprio in ottemperanza della sentenza della Corte che dicono che non bisogna accomunare i diritti a quelli del matrimonio ex articolo 29, c'è la disciplina che riguarda unioni civili per persone dello stesso sesso, nella seconda, nella stessa legge, unioni civili per eterosessuali, quindi la legge non è affatto solo per i gay, punto. E tra l'altro, ecco, vedi che ci chiede anche Monica, ma la Meloni è sposata in chiesa, se no che ci faceva là? Beh, insomma, allora se per questo Mario Adinolfi, che è uno degli organizzatori del Family Day, è divorziato, risposato a Las Vegas, tra l'altro, vabbè, questo è un tocco di colore, non facciamo l'elenco dei separazioni, divorzi e quanti figli da quanti partner dei politici che giurano fedeltà alla famiglia, secondo meglio non essendo farlo. Essendo per la famiglia, com'è quella famosa battuta, molti politici essendo per la famiglia ne hanno due o tre. Ne amano così tante, come Andreotti con le Germanie, ne amava così tante che ne preferiva due, per così dire. Dai, allora, su. Però ci chiama Lorenzo da Bologna, buongiorno Lorenzo. Eccoci, c'è Lorenzo? No. Buongiorno. Eccoci. Dica. No, io volevo dire anche io la mia per quanto riguarda questo tema. Intanto volevo dire che sono a favore dell'estensione dei diritti in generale. Però il primo diritto che secondo me va tutelato è quello di un bambino, che è il soggetto più debole della società. Quindi ha bisogno di avere una mamma e un papà e tutti gli altri diritti vengono dopo. Quindi se non si riesce a tutelare prima quel diritto è inutile cercare di andare sopra al suo diritto per cercare di tutelare degli altri. Che sono diritti minori, insomma, traduco la sua rispetto al diritto superiore che al diritto del bambino. Diritti, nel senso che avere un bambino è un bel desiderio. Ma non è un diritto. Non è un diritto, parlo anche da genitore adottivo. Cioè io sembra di capire che lei è contrario a questa legge. Però il problema qui non si tratta del diritto da dare a una coppia omosessuale di assolvere e perseguire il desiderio loro di avere un bambino. No, qui si tratta di il diritto del bambino si cita perché il bambino è figlio di un rapporto preesistente e non essendoci più la famiglia fatta del papà e della mamma, il problema diventa, gli diamo comunque una famiglia, sia pur di tipo diverso, ecco, e concedendo a chi sottoscrive l'unione civile con il papà del bambino potestà parentale o no? Ecco, io mi limito a dire questo, per circoscrivere il caso di cui stiamo parlando, poi ognuno la pensa insomma come vuole. Comunque, grazie Lorenzo. Sentiamo che ci dice Clara da Milano. Buongiorno Clara. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma io sono abbastanza sconvolta da tutto questo cancan, nel senso che sono già abbastanza sconvolta dal fatto che fossero 2 milioni di persone che stessero protestando o edificando questo Family Day, fossero anche 500.000 mi sembravano già tante. Io ovviamente sono pro questa legge, magari va sistemata, rivista, per carità, no, però in assoluto mi sembrava che tutta questa questo fervore fosse non solo rivolta a particolari della legge, ma proprio in assoluto i diritti civili, la famiglia, preserviamo la famiglia, ma non è che una cosa escluda l'altra. No, cioè, io sono assolutamente... Ma Clara, c'è anche chi ipotizza sui giornali che alcuni, da Gandolfini agli altri, vogliano fare un partito, cioè pensano alla politica. Non lo sottovaluterei come linea di fuga di questa roba. Beh, perché soprattutto dicendo non voteremo più Renzi, forse può voler dire mettiamo già a visto sistema con Sant'Egidio c'è stato già un partitino di un pezzo del mondo cattolico, quindi io non lo escluderei in quest'area neocatecumenale. Comunque lei Clara dice non capisce perché dare dei diritti ad alcuni dovrebbe precludere diritti ad altri, no? Assolutamente, quindi due cose. La prima era che proprio ero sconvolta da queste persone che scendono in piazza in questa maniera con tutto questo cancane, Maroni, Supirellone, Italo che fa le sconti per chi va al femminile, cioè quando poi ci sono delle schifezze terribili in Italia, si cambiano la Costituzione, tutto tace, tutto tranquillo, in questo modo così, a mio avviso, assolutamente antidemocratico. E poi parliamo anche di questa cosa, effettivamente, Renzi, ricordati di noi, cioè, o meglio, noi ci ricorderemo di te. Mi sembra leggermente, non dico intimidatorio, è troppo, ma comunque passa una comunicazione quasi da voto di scaccia, è proprio brutta sta roba. L'abbiamo detta e sviscerata. Politicamente è legittimo che uno voti quello che vuole o non voti più una persona perché ritiene che non ha più mantenuto fede a delle promesse che aveva fatto. Però effettivamente è, mettiamolo così, una pressione politica. Noi ci ricorderemo di questa cosa se passa. La pressione è una cosa non dichiarata. Questo è un ricatto dichiarato, perdonami. Il ricatto per me è se io ti chiedo soldi o ti metto un coltello. Il ricatto politico non è solo in cambio della dazione di soldi. No, scusami, parliamoci chiaro. Il ricatto politico è o fai come dico io oppure non ti si danno i voti. È un po' diverso. Non voglio sostenere le loro ragioni, ma è o fai come avevi detto 3 anni fa che avresti voluto fare. Comunque come dico io che te lo chiedo. Pensiamo che tu hai cambiato parere e quindi noi cambiamo voto. Mica sto dicendo che è un reato, però è un ricatto. Abbiamo paura, almeno io non ho paura di usare questo termine, verso i toni che hanno usato Gandolfini, eccetera, mentendo oltretutto sulla legge. Io lo sottolineo, mentendo sulla legge. In nome della verità del Vangelo mentono sulla legge, chiari. Eccolo lì. Io lo so che a volte sono contundente. Però loro lo sono. E come? Santo Dio. Allora, tra l'altro, più avanti, dopo la pubblicità, parleremo di armonizzarci. Sì, Santo, però anche questa storia di tronca. I versanti che vuole Giannino, quelli che dicono accerterò i dirigenti. Non l'hai detto benissimo. Santo subito. Tronca. È vero. No. Tronca, che ha chiamato adesso poliziotti, carabinieri e guarda di finanza del suo gabinetto. Sì, e l'idea ideale di governo italiano. Allora, Tronca, manette per tutti. Vuole adesso vedere chiaro sulla vicenda degli affitti a 10 euro del patrimonio. Esatto. Però, allora, va bene. Ma si sa da anni, c'è un cittadino che abbiamo invitato venerdì che da mesi ha scoperto tutto. A differenza dei sindaci precedenti lo fa. Voglio vedere, ma io se lo fa... Perseguirà i dirigenti che hanno messo la firma a questi affitti di amici. Ma io metto la foto di Tronca in ufficio e mi ci genufletto come Fantozzi se lo fa. Proverà a farlo, diciamo così, vuol vedere chi sono i dirigenti che hanno tollerato per anni questa cosa. Però è da anni che si sapeva, no? Ho capito, ma questo è l'Italia, da anni. Oh, guarda, il male pubblico, ripeto, ieri erano i 7.000 dipendenti infedeli e 4 miliardi di buco. Quelli che si lamentano che lo Stato deve rimanere tutto allo Stato. Questo è lo Stato che difendete, cari difensori dello Stato. Lo Stato però è anche la Guardia di Finanza che va a scoprire. No, in quel caso lo Stato no, non lo è Stato la in questo caso è Tronca che la manda, perché la Guardia di Finanza di suo, come si vede, è un po' come i sindaci precedenti che non ci andava. Quindi no, perdonami, no, so di cosa parlo in questo caso. Quindi, però Tronca, vediamo, l'eccezione alla politica, capisci? Perché lui non ha il problema, ti ritiriamo su questo i voti. Certo, non ha il problema, non deve guardare in faccia a nessuno. Infatti io voglio che scopra 43.000 appartamenti a Roma, 100 milioni di euro persi ogni anno, sì, solo però, così. Però bisogna scoprirlo, non come la vicenda delle statue in Bragate, che come è finita non ci sono responsabili. Tra Luci e Renzi, ecco, è finita, cioè senza responsabili, ecco. E con la bella buonuscita e senza dirci chi è stato. Copertura politica, dinanismo politico. Il mio timore è che anche andando a scovare chi è quel dirigente che ha tollerato 43.000 edifici dati in affitto, non si scoprirà chi è il dirigente. Questo può essere, quindi su questo hai ragione tu a dire in Italia bisogna non si scopre mai aspettare i fatti. Senti, ma stasera andiamo a sentire Grillo a Milano? C'è Grillo a Milano? C'è lo spettacolo, ragazzi. Non ho preso il biglietto. Ma dai, non è tutto venduto. Ma sai che io pare. Grillo tornerei proprio vorrei a tornare. Linea Chuck dice che non è mica tutto, non è sold out. Non è sold out. Pare di no. No. Quasi perché Beppe Grillo, ecco, lui, proprio vorrei tornare a vederlo come lo vedevo, lo apprezzavo quando faceva gli spettacoli, quando mi faceva ridere 2 ore, ridevo e così. Questo non lo so se sarà così, però devo ammettere un po' di curiosità ci avrei, andare a vedere questo spettacolo sull'ologramma, così lo dico. È vero. Poi tra l'altro in sordina sui giornali di Milano oggi non è annunciata come una cosa, cioè è quasi... Ma sai, adesso dire c'è Grillo sembra quasi perché dice lo devo mettere in cronaca politica o cronaca spettacoli, perché in cronaca spettacoli praticamente, devo dire la verità, non c'è. Non c'è. Sarà anche per evitare di dare una mano perché c'è la campagna elettorale a Milano alle primarie. No, capisco. Non però si può dire, o si può dire, non sai mai se lo dici, se tiri la volata però, politicamente. Dire, Bassolino dice che i Sarri del PD a Napoli fanno i titoli. Bassolino, vabbè, allora mai citato Napoli? Ce l'abbiamo Vincenzo Sarò De Luca. Sarri PD. È tornato Vincenzo De Luca. Allora, Vincenzo De Luca ha risposto a una mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle. Senti come ha risposto, Una mozione di sfiducia, io mi aspettavo sinceramente missili termonucleari che mi colpissero. E ho ascoltato una cosa flebile, gracile, deboluccia. Mi aspettavo bombe atomiche. Ma tu senti? Ho sentito, non so se si chiamano anche qui, i fifi, quelli che si accendono, fifi. Fatto dai, un leggero Oscar. Fischio, un po' di fumo. Questo è De Luca, ma è un genio della comunicazione. De Luca andava benissimo quando c'erano i drammi radiofonici, quando non c'era la televisione, perché ha questa capacità interpretativa, con questo tono così impostato, strepitoso. Flebile. E poi su Di Maio, cos'è che ha detto anche Di Maio dello stadio? Sai che Di Maio faceva lo steward al San Paolo. Senti questo. Così come porta male qualcuno che è membro del direttorio, forte della sua esperienza di steward alla tribuna autorità del San Paolo, si candida a governare l'Italia. Proposito noto fra parentesi che da quando non frequenta più la tribuna del San Paolo, il Napoli ha avuto un'esplosione che stia che è la cosa che è peggiore, porta sfiga anche per i napoletani. De Luca De Luca potrebbe essere il vero leader del centrodestra italiano. Centrodestra, ma non c'è dubbio, perché in questa visione del RAS da una parte, dell'uomo forte per così dire, che strapazza col tono e la cosa vedo che ti viene bene. No, beh, perché è un eterno dell'uomo politico del sud ed è così, lui dovrebbe essere il vero leader del centro-est italiano. Sentiamo Ruggero. Questi che ci non chiama. Sanno chi candidare nelle città, ma ci perché chiama. C'è un leader naturale del centro-est, è De Luca. Dobbiamo andare in pubblicità. Ruggero lo recuperiamo subito dopo. Poi parliamo anche un po' del Senato, dove si armonizzano gli stipendi. È la Camera che tagliano i barbieri. Va bene, tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Certo, caro Oscar, come ci dicono, la Camera che taglia i barbieri che tagliano non è male, taglia coloro che tagliano. Ma certo, è l'unica cosa che tagliava qualcosa la Camera, il resto gonfiava solo la spesa. Però c'era Ruggero dei nostri soldi. Ruggero. No, che ci stanno ascoltando, ci sta ascoltando già un ospite che poi sarà arrabbiato di queste due parole. Ma c'è Ruggero da Bari che era lì. Ruggero, che ci vuol dire? Sì. Vorrei tornare un attimo sulla questione Family Day e quelle cose là. Io ho visto una reazione appunto a seguito del Family Day davvero non solo esagerata ma maleducata, ma per dire, ma diffamazioni, no? Io ho sentito dire che quelli del Family Day erano dei pagliacci che sono andati a fare una buffonata. Abbiamo detto, sono c'era un livello di astiosità. Questo allargare il discorso e per dire che io credo oggi bisognerebbe introdurre il reato di eterofobia, perché ma se dobbiamo essere liberali su tutto, no? Sì. Allora dobbiamo essere liberali, ognuno deve poter esprimere quello che vuole, perché se uno dice ah frocio qua viene sanzionato oppure sì. E chi dice che questi sono pagliacci, un po' per dire, io mi limito a questo, sì. Non deve essere sanzionato, vabbè. Per quanto riguarda il discorso dei numeri, la settimana prima c'è stata una manifestazione, saranno stati 10.000, hanno sparato 1.000.000. Sì, è chiaro che la questione non è... I numeri lo sappiamo, sono sì. Molto relativi. Però il problema è che cosa, secondo me, ha suscitato questa reazione. Il fatto che se fossero scesi in piazza le gerarchie ecclesiastiche, diciamo, si erano già preparati per tirare fuori i soliti stereotipi, i pedofili e qua là. Vedere che scende il laicato, sì. Diciamo, scende in piazza la base, anche senza le gerarchie, no? Lo dobbiamo dire questo. È chiaro che spaventa. Ha scatenato un po' tutti. Va bene, Ruggero, è chiaro, si fermi qui perché sennò esordiamo. Comunque, anche nei 5 Stelle, sottolineiamolo, c'è un dibattito aperto in molte sumit-up che dicono ma qui ragazzi, no, noi dobbiamo essere più adesivi con la piazza, con i cattolici non in piazza. Non c'è un partito non c'è la vecchia Democrazia Cristiana, dove forse erano più o meno granitici. No. Ma come, c'è il treno che si ferma ad Arezzo, leggo sul giornale, non c'è la vecchia Democrazia Cristiana? I programmi sul sesso degli adolescenti li mandiamo a tarda notte, la Rai di Iacona è come la DC, forse peggio della DC. Va bene, magari questo lo affrontiamo più avanti. Se ci rifletti, come vedi, il banchiere di Dio dei tempi della DC. Io sono il primo a dire che è tornata un po' la DC al governo, però diciamo sotto spoglie un po' diverse. Sì, molto più dure perché la DC certe durezze di Renzi non ce l'aveva. Allora, ieri, ironizzando, ma non troppo, dell'articolo che Sergio Rizzo ha scritto sul Corriere della Sera. Buongiorno Sergio Rizzo e bentrovato. Dicevamo, quale italiano non vorrebbe andare al posto di lavoro e chiedere di armonizzare il proprio stipendio magari con quello dell'amministratore delegato? Sergio Rizzo, potresti farlo anche tu, insomma. Una volta c'era il galleggiamento, no? Mi ricordate? Sì, esattamente. Perché al Senato, hai raccontato, fanno questo, il nuovo Senato sarà di 100 senatori che dovrebbero guadagnare come i consiglieri regionali, e allora loro cosa fanno? Armonizzano lo stipendio a quello della Camera dei Deputati, di cui salutiamo uno dei questori, Stefano D'Ambruoso, buongiorno onorevole. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora Rizzo, ma cosa vuol dire armonizzare? C'è scritto, cioè, che le due cose devono allinearsi in qualche modo, lo stipendio dei deputati a quello dei futuri senatori, così si capisce leggendo quel documento. E qui è la dimostrazione che la demagogia è sempre un'arma a doppio taglio, no? Perché tu puoi anche dire che i senatori lavoreranno gratis, puoi fare una bellissima campagna pubblicitaria su questa, le riforme, su questa cosa, dopodiché però quando scopri che non è così, come te la cavi? Perché in teoria c'era il rimborso spese per andare a Roma e basta per i futuri senatori. Ma no? Io non si è mai capito questo, perché siamo rimasti alle dichiarazioni. Poi però l'atto pratico, quando tu stabilisci che il Senato fa parte del Parlamento, è un po' difficile dire che i componenti del Parlamento non possono essere retribuiti come i componenti dell'altro ramo, anche se le funzioni sono un po' diverse. E infatti questo poi si porta dietro tutto il resto, no? Si porta dietro il fatto che siccome il Senato è parte comunque un pezzo del Parlamento, anche se le funzioni sono cambiate, i funzionari del Senato, del futuro Senato, avranno le stesse retribuzioni dei funzionari della Camera. Quindi è come dire, è tutto una macchina che si tiene insieme. Ecco. Sì, cioè se la riforma è fatta a metà, capisco io così, è chiaro che se il Senato rimane così, anche se con funzioni diverse, che finisce il bicameralismo perfetto, però a questo punto come fai a dire effettivamente a un funzionario del Senato tu non sei più al livello di un funzionario del Parlamento? Come fai a dire, non so, però è stato detto sistematicamente, annunciato, ribadito, che oltre al venir meno, cioè al taglio dei senatori come numero, c'era anche il taglio delle indennità. E i giornali hanno pubblicato per mesi anche il problema relativo a cosa avverrà poi dopo i decenni di laute, retribuzione del personale, eccetera, eccetera. Adesso, grazie a Sergio Rizzo, scopriamo che è tutto come prima. Allora, la mia proposta da contribuente è: se così finisce, noto e calcolato l'aggravio della misura di cui parla Rizzo, si fonda un bel comitato pubblico di cittadini contribuenti, più siamo meglio è, che pubblicamente ci dicono: per quella somma ce l'autodefalchiamo dalle tasse, sfidiamo i tribunali, autodenunciamo come evasori. È già la seconda iniziativa, alla fine ci autodefalchiamo per una cosa, ci autodefalchiamo per l'altra. Andiamo in tribunale, andiamo in tribunale, non è che non le paghiamo, andiamo in tribunale, però dicendo: ci avete detto X, avete fatto Y e condannateci a questo punto, perché io credo che bisogna iniziare a fare delle cose pubbliche gandiane, come ci sono quelli che andrebbero nominati tribuni della plebe a vita, come Sergio Rizzo, cioè quelli grazie alla cui informazione queste cose diventano nazionali. Così ci vorrebbe qualcuno che, da cittadino gandiano, dice: ragazzi, ma non è che è possibile che ogni volta dite una cosa e ne fate un'altra a spese nostre. Ecco. Però invece alla Camera, devo dire, intanto, non so, D'Ambruoso, ovviamente lei è uno dei tre questori, cioè coloro che tengono i conti alla Camera, questa cosa vissuta dalla Camera le suscita qualche riflessione, visto che al Senato vogliono armonizzarsi a voi, la trova giusta, corretta? Ma guardi, senz'altro io mi trovo stamattina in una situazione singolare, perché condivido le ragioni che sono state presentate sia da Giannino sia da Rizzo, e devo anche dire che oggi ho letto sul Corriere della Sera una presa di posizione del questore anziano De Poli, dove riafferma che non è in moto nessun tipo di percorso verso il riconoscimento anche ai nuovi futuri senatori, da dove dovesse passare la riforma, di un'indennità corrispondente a quella di... Però io non voglio difendere queste posizioni, perché ho una posizione per la quale difendere delle posizioni sulle quali ho delle grosse perplessità, mi ritrova in uno stato di mezzo, per cui già non posso passare agevolmente nei corridoi di Montecitorio perché mi sono fatto portatore di iniziative, appunto, di sobrietà, spending review, tutto quello per cui ho creduto. I funzionari picchiano, fanno sgambetti. Però a volte può capitare che ti tolgono il saluto, per esempio, perché persone con le quali sei stato a cena e può anche capitare questo, per cui al netto di tutto questo, Io considero che è giusto tenere alta la guardia da parte di chi fa, appunto, analisi e di chi prospetta possibilità di scivolamento. Fino ad oggi tutto questo non è accaduto, per cui mi sembra giusto che stia accadendo tutto quello che sta accadendo, quindi sia le riflessioni forse anticipate da Rizzo, che ha anticipato, appunto, questo tipo di possibilità, sia quello che oggi state facendo. Vabbè, voi, ma adesso vedremo anche Rizzo cosa risponde alla questione di De Poli. Però c'è la questione della Camera e del taglio dei barbieri. Ma allora, era ieri il giorno in cui avreste dovuto tagliare i barbieri? È vera così? Cioè, è successo, D'Ambruoso? È meno macchiettistica di quanto possa sembrare, perché pur volendo riconoscere al servizio di barberia una sua utilità, quello che io da questore anziano, anche qui nello smarrimento iniziale delle votazioni parlamentari, sono stato eletto questore anziano, non ci sarebbe stata questa volontà politica fino in fondo. Certo che io, una delle cose che con chiarezza e senza innalzare barriere pentastellate, ma dicendo esattamente quello che qualunque persona a casa nel proprio condominio avrebbe fatto, e cioè che se una barberia ci costa 500.000 euro e incassa 92.000 euro, io non avrei mai sottoscritto nessun bilancio che prevedesse questa cosa. E di lì si è messo in moto questo meccanismo che gradualmente, su mie sollecitazioni, ha portato prima all'estensione della platea di clienti, quindi prima alle donne, quindi finalmente abbiamo fatto... Perché erano vietate? Perché erano vietate? Prima c'era questa disabitudine a cui ci si era abituati. E poi anche ad altre persone che hanno... ad altre persone che avevano accesso lì al transatlantico. Ma nel fare tutto questo ho colto, non faccio del vittimismo perché ciascuno fa delle cose secondo i propri principi. Aspetta. E mi fa piacere averlo fatto, ma nel fare tutto questo ho avuto delle reazioni sempre molto forti, nel senso, i sindacati, cioè, ma meno, mi faccia capire, meno, cioè ci sono tre barbieri in meno adesso, questo è stato adesso il massimo che siamo riusciti a raggiungere per il momento, e sono che da 7 barbieri che facevano, sì, in 7, sì, 23 servizi a settimana, il che vuol dire che uno faceva una barba, un altro faceva i capelli, cioè, persone, uno faceva il conto, c'è Oscar, c'è Oscar che salta sulla sedia come se le avessero messo una mina antiuomo, no, ma una perché mina io antiuomo. Apprezzo l'intento di Stefano. Beh, però D'Ambroso, da 7 sono 4 adesso, no? Hai capito, però siamo riusciti a tagliare 3 barbieri, e io, sì, lo so che Stefano D'Ambroso ci sta dicendo la verità, ma cioè, no, ma è chiaro, è un'opera improba, si prova, dire l'elementare verità, cioè che in Parlamento non ci dovrebbe stare nessun stracazzo servizio di barberia e capelli, perché è ovvio che devono andare a tagliarseli fuori. Ecco, dire questo, questa elementare verità, detto, non, no, ma io lo capisco, perché dentro il Parlamento serve, già impegnarsi a fare quello che sta facendo D'Ambroso è già significa tanto, è già D'Ambroso tanto. Ma perché rompi le scatole, ma, non ma ti lascia rivolgo stare saluto, le cose, ma quello è un padre di ma è amico, ma lo sai, eccetera, certo, eccetera. E tu, ecco, poi sono tutte persone con cui deve, con cui deve, ha ragione, però sono stati, ha ragione, sono stati Sergio Rizzo, allora è il massimo che si c'è, cioè Oscar Giannino che qua lo ma devo no, tenere, ma dai, datemi una frusta, ma datemi un italiano che dice hanno diritto a tagliarsi i capelli loro di dentro, però ma Sergio D'Ambroso, cioè voglio dire, ce la fa a fatica, perché poi questo ci fa capire, cioè ce la fa, è già tanto quello di essere riusciti a togliere 3 barbieri, no, mi sembra di capire, cioè, ma lui ce la sta mettendo tutta, io sono convinto, il problema è che la macchina ha degli ingranaggi enormi per una persona sola che vuole smontarli, come dire, lì ci vorrebbe una volontà politica un pochino più consistente, che non quella di un singolo parlamentare che si impegna e ci mette la faccia, insomma, no, sì. Devo dire, già i risultati che ho ottenuto sono esatto, è così, no, sì, no, anche se a me ha incuriosito questa cosa, 3 barbieri tolti vengono messi a fare gli assistenti parlamentari, ma è vera questa cosa, D'Ambroso, cioè non sì, è che è vera D'Ambroso, perché, è vera, sì, perché hanno vinto un concorso per, ma ho capito, ma un barbiere che fa l'assistente parlamentare, caro Alessandro, di sicuro qualcuno che finalmente taglierà la spesa pubblica dirà al parlamentare, ti dico come tagliarla, guarda, in tempi in cui si caccia Cottarelli, guarda, il barbiere non lo sottovaluto, non me lo sottovalutare, se non la sai tagliare la puoi sfumare un po', esatto, di lato, non temere, scusate, non temere, si ride, no, ma D'Ambroso, hanno vinto un concorso, quindi devono rimanere, e che gli facciamo fare a un barbiere che non fa più il barbiere? E quelli sono quegli ingranaggi che anche gli 11, le 11 sigle sindacali sono riusciti nel corso di questi ultimi 20 anni ad accumulare, per cui appunto c'è un passaggio che è assimilato a quello della barberia, e per quindi stanno legittimamente secondo quel regolamento interno della Camera, che è l'unica legge che vale, perché anche qui aboliamo l'autodichia, anche qui, capite? E dire tutto questo, che ha una ragionevolezza di fondo su cui poter riflettere, sia in senso positivo che in senso contrario, ebbene ti sembra invece solo purtroppo uno scivoloso ragionamento pentastellato, e non funziona, perché ragionare d'accordo con attenzione sull'autodichia davvero ha un senso oggi, sì, perché l'autodichia ha prodotto anche tante cose positive, senz'altro, però anche questi mostri, anche mostri. Questi mostri la dobbiamo salutare, vi dobbiamo salutare. Sergio Rizzo, continua per favore a scrivere queste cose sul Corriere per il bene dell'Italia, gratis, vengo a farti da autista, ti porto nel risciò, guarda, per quello che fai ci tutti sono giorni. Degli Oscar ti amo, sì, ma è vero, credo, no, ma no, Rizzo ti amo, non Oscar, no, ti amo, no, Rizzo, ma credo Rizzo anche, perché ti sei un po' infervorato, ma dai, barbiere, l'assistente parlamentare, e poi ce la ficcano in fondo alla schiena, no, noi pagate i basori, meno male. A domani la zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera, e a pranzo la cipolla e un pezzo di pane duro, e a cena una minestra scunnita.